stiamo parlando, no, giustamente, cose del podcast senza nulla c'entra. Giustamente, benvenuti, benvenuti alla, mi verrebbe da dire 37esima? 40esima, Marco. Perfetto, è rimasto un po' indietro. La 40esima puntata del Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E effettivamente Jacopo mi ha fatto notare che stavamo parlando da 5-6 minuti di qualcosa che era meglio, di cui era meglio almeno discutere nel podcast per condividere anche con voi. Ma andiamo con ordine prima di riprendere questa, o cominciamo subito la nostra rubrica del che cosa abbiamo giocato questa settimana prima di andare avanti. Io non lo dico perché lo dirò dopo. Ok, allora quello che stavamo discutendo poco fa e che abbiamo deciso di portare anche a voi era di come sono riuscito a provare Ori and the Blind Forest in questi giorni e di come l'abbia trovato assolutamente adorabile, nulla da ridire su quello, ma il gameplay non è riuscito ad appassionarmi tantissimo. Tanto che per il momento è stato abbandonato un po' a metà, ma non escludo che prima o poi riuscirò a finirlo quando, non lo so, mi sento più zen per restare in argomento. Oh. Eh? Oh. Ma questo ne parleremo tra poco. In poche parole stavo dicendo che avevo assolutamente trovato la storia adorabile, mi aspettavo anche che, questo parlando ancora alla cieca, avrebbe portato anche qualche un finale con un po' di significato, probabilmente, un po' di catarsi, mettiamola così. Tuttavia ho trovato che in molti punti il gameplay risultava frustrante per via di controlli un po' poco precisi, o almeno questo è quello che è sembrato a me, o che perlomeno mi creavano un po' di confusione, ma come stavo dicendo a Jacopo, io non sono proprio per quei giochi che richiedono precisione, controllo, vedi, spara tutto, i platformer non sono decisamente la mia pasta, no? Esiste questo modo di dire, no? Non sono decisamente il pane per i miei denti. La pasta per i denti è più buona, effettivamente. Dipende dal sugo. Nel caso non si fosse notato, stiamo registrando il 15 agosto, quindi un buon Ferragosto in ritardo a tutti i nostri ascoltatori. E io sono molto morto da... Sì, potete immaginare già il caldo e il cibo che abbiamo in corpo e altre sostanze, mettiamola così, che possono averci ridotto in questo stato, quindi sarà un argomento interessante, come diremo. Ci sei come il giorno poco più fa. Perfetto per parlare di questo argomento. Finendo per Ori, niente, alla fine era questo qui che io ho trovato che questo tipo di gameplay che richiede la perfezione in una sequenza di platforming, come questa qua di Ori, perché di sicuro non è un gioco di combattimento, perché anche lì il combattimento è abbastanza ridicolo nel gioco, è più un... Il primo, sì. Sì, è più una... come dire, quasi... è letteralmente quasi una buca nel terreno da superare, no? È qualche ostacolo in più durante le sessioni di platforming, che purtroppo a me non mi hanno fatto innamorare. Peccato perché l'estetica del gioco è veramente fantastica, l'ambientazione sembra molto... interessante, non nel senso che sia profonda, ma che poi sembra proprio una di quelle, sembra quasi un libro per bambini misto a qualcosa di un po' più da adulti, inteso qualche tema di nell'introduzione si accennava molto al tema dell'abbandono, di solitudine e altre cose del genere, e da quel che mi diceva Jacopo il finale dovrebbe essere abbastanza commovente. Per cui è un dispiacere, mi dispiace molto che non sia riuscito a acchiapparmi di più. Avrei voluto appassionarmi. Dispiace anche a me. Succede. Però vabbè, non è che a tutti possono piacere tutti i giochi. Esatto. Io aggiungerei, non a tutti possono piacere i giochi bellici, esistono anche gli stronzi a cui non piace Mythic Quest, e quindi non gli piace. L'ho sempre detto, mai messo in dubbio di essere uno stronzo. No, no, ci sta, tranquillo, nel senso, appunto abbiamo un attimo detto prima, in questi sei minuti pre-puntata, il difetto che Ori, che paga per il suo art style, è che non sempre gli ambienti di sfondi sono chiari. Cioè non sempre riesci a prevedere dove potrai aggrapparti, dove potrai atterrare senza scivolare, cioè è un po' anche il sequel. Poi vabbè, il sequel migliora tantissimi aspetti, questo secondo me no, rimane un po' il problema. Però per me, per tutto il resto, è perfetto, cioè un gioco... Il primo è una botta di vita incredibile al genere, secondo me, e anche un ottimo utilizzo delle risorse che avevano, e per me il gameplay è stato fantastico, e qui direi è arrivato ad avere un flow, per me ne parleremo in questa puntata, è arrivato ad avere uno stato mentale zen giocare a Ori, il primo. È vero, non posso negare che un po' è venuto anche a me in alcune parti che erano fatte meglio di altre, secondo me, della mappa, anch'io sono entrato un po' nel flow. Chi non conoscesse Ori, Ori è appunto, come hai detto tu, un platformer, ma è anche un metroidvania, quindi magari alcune parti della mappa ci passi più spesso. Però, al contrario di alcuni platformer metroidvania, dove magari le abilità che sblocchi servono solo in certi posti, dove magari devi raggiungere un posto dove prima non potevi arrivarci perché non avevi queste abilità, invece ora puoi arrivarci. Ori, la cosa bella è che ogni abilità che sblocchi, o quasi, ti aiuta a percorrere gli stessi posti, quindi ti velocizza, e arrivi a un certo punto che, diciamo, il mondo di gioco cambia perché interpreti diversamente quello che c'era, e riesce a concatenare queste abilità e a diventare velocissimo. Ci sono anche delle gare, vabbè. Visto in effetti che il gioco puntava anche molto alla challenge, c'era anche una modalità hardcore in cui potevi morire solo una volta, e posso immaginare che ci siano speedrun a non finire del gioco. Sì, ma io quando le guardo sto con gli occhi sbarrati, ma che cazzo sto facendo? Vabbè, non so, se non hai altro da dire possiamo fare l'altra rubrica velocemente e poi passare. A parte l'altra rubrica non c'è molto da dire, la Blizzard continua a fare schifo, no. E continuano ad accumularsi le cause. Ah, la Blizzard. Doveva prima o poi cadere anche questo gigante, mi sorprendo quasi che ci abbia messo così tanto, visto tutta la merda che aveva fatto da qualche annetto a questa parte, un po', come dire, scelte. Diciamo che mi aspettavo capitasse qualcosa già intorno a quando avevano annunciato Diablo Mobile o qualcosa del genere. Insomma, intorno a quel periodo lì. Una brutta, brutta, brutta storia quella della Blizzard, che temo che nei prossimi anni, sarò sincero, mi aspetto di... Sperando non in questa... Non con questa gravità, ma anche di sentire forse da qualche altra azienda. L'EA non se la può cavare sempre, no? A questo punto, perché... E che dire, ci stanno andando ancora giù dentro. Sembra che effettivamente qualche testa sia caduta, che fa sempre piacere sentire. Ma per il momento siamo ancora tutti osservando senza sapere bene... È caduto qualche testa perché Bobby Kotick doveva metterci i suoi pazzi, ma questa è un'altra storia. Ovviamente non è successo molto altro. No, non è vero, c'era una cosa di cui volevo dire, che era uscita, finalmente uscita la famosa app che tutti stavano aspettando per il trailer di Abandoned. Ok. Che, se non ricordate la storia a cui avevo accennato qualche podcast fa, e era diventato questo quasi meme all'inizio di come Abandoned, dello studio Blue Box, fosse in realtà una copertura per il prossimo gioco di Kojima e che fosse tutto un grandissimo gomblotto. E se prima, secondo me prima si poteva ancora come dire, considerare la cosa come un'esagerazione, nel senso che è vero, c'è questa Blue Box Studio che ha fatto queste cose qua, che potrebbe essere qualcosa di copertura per Kojima, ma nel senso si poteva dire, uno ci poteva credere come non ci poteva credere, poteva dire sì, forse c'è qualcosa dietro, ma hanno esagerato qualcosa. Ecco, secondo me dopo l'uscita dell'app, che è stato un flop assurdo, perché l'app non funzionava, hanno dovuto, ed è stato anche poi rimandato del tutto, è uscito una specie solo di trailer di grafica in gioco, dove si vede un tizio camminare su un pavimento, nel senso che l'inquadratura è letteralmente solo dei piedi di questo tizio che si muovono sul pavimento, con un po' di luce ben fatta, e RTX, cose del genere. Quindi io adesso sono convinto, se prima uno poteva mettersi in qualsiasi punto tra questi due, diciamo, vertici di questo grafico, no? Da non c'è assolutamente niente dietro, è tutto uno studio indie che come dire, ha gestito male la cosa, è tutto un inganno di Kojima, se uno poteva mettersi in un qualsiasi punto su questa retta fittizia, adesso no, adesso rimangono solo i due estremi. Io sono convinto che o veramente la Blue Box ha fatto completamente un casino assurdo a questo punto, o è davvero tutto Kojima con un complotto straordinario dietro, perché non c'è più la via di mezzo ormai, è stato tutto troppo rovinato dall'uscita di questa app, quindi deve essere o l'una o l'altra, e nel cuor mio spero sempre sia l'altra a questo punto, ma non ci credo troppo nemmeno io. Però sarebbe fighissimo, sarebbe assolutamente fighissimo. Io spero di no, per tutte le parti coinvolte. Sarebbe meglio, in effetti. Per il resto hanno fatto due presentazioni di giochi indie, Microsoft e Nintendo, questa settimana. Nintendo l'ha fatto stile Nintendo, quindi corta e equilibrata. Microsoft l'ha fatto stile Microsoft, quindi 2 ore di fuffa. In realtà non è colpa della Microsoft stavolta, perché Twitch ha deciso di copiare Microsoft e l'hanno fatto loro, la fuffa. Ok. Perché hanno fatto dei trailer intermezzati da gente di Twitch che parlava e commentava quello che avevano appena visto, ma erano persone di Twitch, quindi vabbè, lasciamo perdere, è una cosa molto post-apocalittica. Però no, c'erano giochi molto interessanti, tra l'altro, per la 14esima volta si è visto Sable, che vi consiglio di andarvi a vedere, c'è anche una bellissima canzone che hanno cantato sul palco del Summer Game Festival, tipo. Poi se cercate Sable Japanese Breakfast è quella. È un gioco che sto aspettando che esca per giocarlo, un gioco indie molto carino. Per il resto, sono talmente tanti giochi indie che si sono visti che non me ne ricordo neanche uno. Ce ne sono alcuni che sono già visti, tipo quello della bestia con il villaggio sopra che si muove. Sì, quello qualcosa Village, mannaggia. Esatto, quel gestionale. Esattamente, quello l'avevo visto anch'io, mi interessava parecchio. Insomma, cose del genere che sono già viste in altre. Come si chiama? Conferenze. Sì, in altre conferenze. Cose magari, cioè dei porting così su Switch che dici, ma questo gioco lo sto giocando da 3 mesi. Adesso arrivo su Switch. A qualche FPS in meno. Esatto. Altra roba, diciamo, che alla gente interessa, a me no, Toem, che non so se Sal ascolta ancora questo podcast. Io ascolto il Sallotto, che cavolo. Glielo dirò personalmente a breve, Toem, che è... Oddio, però non so se piace a Sal, vabbè. Un gioco tipo Pokémon Snap, ma molto retro, hipster. e quindi niente, cose del genere. Ah, ma guarda, stavo guardando su Steam Toem, carino. Eh sì, vabbè, roba tipo Metal Slug Tactics, roba tipo... Vabbè, è inutile che stiamo qua a fare una listona dopo che abbiamo detto che non facciamo più listone. Esattamente. Direi che ci siamo. Che titolo notevole da dire, no? Mi sembra che l'abbiamo appena già detto. Niente, a posto. Ah, forse roba di Shovel Knight. Vabbè, ma comunque niente di che. Andatevi a cercare Boyfriend Dungeon, vedete cos'è, e fatevi una risata o... La Boyfriend caricata Sword o qualcosa del genere. Va bene. E quindi, in questa giornata di puro relax, anche se qui, vabbè, andiamo con ordine. Abbiamo accennato durante l'introduzione al tema di questa puntata. Puntata che è talmente zen che praticamente non ha quasi un titolo, o se ce l'ha non... Non l'ho detto io all'inizio. Jacopo, vuoi introdurre tu il nostro tema di quest'oggi o lasci me? Allora, il titolo della puntata si chiama per ora The Zone, la zona. E la zona è un luogo che è fisico in Soul, cioè un luogo tipo un mare con delle barche, eccetera, nel film Soul della Pixar. Però mi immagino che è quello stato mentale in cui ti trovi quando sei in questo stato, diciamo, zen, in cui non c'è una vera e propria coscienza, cioè non hai più flusso di pensiero, ma sei tu che sei nel flusso del presente, diciamo, sei tu che sei nel... Sei diventi acqua, diciamo, diventi parte del flusso, diventi... uno con il mondo, diventi, cioè, non c'è un collegamento diretto fra quello che pensi e quello che fai, e quindi non devi più pensare adesso faccio questo, ma tu lo fai e basta. Questo era come lo definiva Bruce Lee, se non sbaglio. Penso di sì, non lo so, ho messo insieme un po' di roba, ho raccattato un po' di roba a caso. E... Andiamo di pure. Vai, vai. No, niente, stavo a... Stiamo appunto parlando del flow, no? Dell'essere tutt'uno con l'universo, mettiamola così. O per come è stato definito intorno agli anni 70, quello stato mentale in cui uno ogni tanto ci si trova senza accorgersene, quando sta facendo qualcosa che lo prende particolarmente, è quel momento... di completa concentrazione che ci fa dimenticare di dove siamo, del tempo che passa e delle nostre necessità fisiche anche a volte, e ci immerge completamente nell'obiettivo che abbiamo di fronte, nella task che abbiamo di fronte. E c'è chi lo chiama flow, scientificamente credo, c'è chi lo chiama the zone, la zona, come diceva Jacopo, e c'è chi lo chiama l'argomento di oggi in questo podcast, perché il nostro argomento è, o almeno il mio argomento, penso, e poi vedremo quello di Jacopo, è di parlare come effettivamente questo stato sia così comune nel mondo dei videogiocatori. O almeno questo è quello che è sembrato a me. È abbastanza comune, però... Il fatto è che secondo me ci sono diversi stati, adesso non so, non conosco la filosofia, la psicologia, la religione buddista, però per me personalmente ci sono diversi stati, c'è lo stato, quello che dici tu, della concentrazione, dove tu fai qualcosa che ti prende, e quindi sì, è vero che non stai pensando, ma sei completamente presente, non è, cioè... Non sei davvero da un'altra parte, sei completamente lì. Invece c'è un altro stato in cui sei completamente da un'altra parte, e questo stato può essere o perché, come si dice qui da noi, ti sei cugnato, cioè stai fissando il vuoto, ti sei in uno stato catatonico e non stai facendo nulla, oppure, scusate, il cugno è un aggeggio che si mette per fermare le porte, non so come si chiama in italiano. Il cuneo, no, cuneo è una città del Piemonte. Penso sia ferma porta, semplicemente. Ferma porta, ok, nome di merda, preferisco pugno. E l'altro invece è, stai facendo una cosa che sai fare, che fai in maniera automatica, come andare in bicicletta o purtroppo andare in auto. Cioè a me a volte capita, non so se vi è capitato, di ritrovarmi da una parte e... è come se mi fossi svegliato, cioè come se stessi dormendo, però avevo gli occhi aperti, cioè stavo guidando, ma per tipo un minuto stavo andando in automatico, diciamo, col pedale automatico. E questi, diciamo, esistono nei giochi questi due, questi ultimi due che ho detto, però sono per giochi più tipo Mountain, o cioè... giochi poco attivi, no? Perché il gioco di base deve in qualche modo essere interattivo, quindi se un gioco è poco interattivo può, diciamo, o è un gioco che stimola la meditazione, quindi un gioco meditativo che magari con dei paesaggi, con delle musiche tipo, che ne so, Ghost of Tsushima o Assassin's Creed Valhalla, sono due giochi molto d'azione, ma in realtà se ti fermi a guardare il paesaggio, specialmente in Tsushima, è perfetto per... anzi, in entrambi i giochi c'è proprio... ha proprio dei minigiochi o degli eventi nel mondo che sono meditativi. In Tsushima puoi proprio scrivere degli haiku, comporre degli haiku. In Valhalla tipo metti dei sassi impilati e poi stai lì o guardi il paesaggio. Noi però, vabbè, ci concentreremo maggiormente per, cioè, riguardo il primo, quello che dicevi tu, quindi sì, ci sta che... Il flow. Il flow. L'essere come acqua. Essere acqua, esatto. E che effettivamente, come dicevo prima, è successo anche a me quando, mentre giocavo a Ori qualche giorno fa, c'erano momenti in cui c'era un po' di frustrazione comunque... ma mi impressionavo nel, come dire, a risvegliarmi, all'accorgermi di quanto tempo avevo passato nel cercare di superare una certa parte di un livello, a cercare di perfezionare i movimenti nel platforming, senza accorgermi di quanto tempo appunto fosse passato, di quanto mi fossi avvicinata allo schermo, no? Sai, la classica immagine, quello che viene assorbito dal videogioco. Molto pubblicità anni 90. Esattamente. Bambini vicino allo schermo. Mi ho trovato molto curiosa mentre facevo una piccolissima ricerca per l'episodio di oggi. No. Guardandomi in giro, hai ragione, ho esagerato, non volevo. Guardandomi in giro per cercare di vedere se c'erano effettivamente qualcosa di un po' più... non tanto studi, però... in senso pop culture, inteso qualcuno che cercava di spiegare il flow oltre a noi due in giro, e mi aveva colpito una definizione di un video di quel tipo che fa i video tutti basati sulla scienza su YouTube, che di cui adesso ovviamente mi sta sfuggendo il nome. Tom Scott probabilmente è lui, non, però non vorrei dire qualcosa di sbagliato, però in poche parole il punto, che era stato più che altro una frase che aveva detto, una parte del suo video, che diceva come alcuni studi avevano notato che una delle maniere più facili per entrare, ecco, diciamo le ipotesi migliori per entrare in uno stato di flow sono l'avere un obiettivo chiaro e preciso durante il proprio task, durante la propria esperienza, e avere un'esperienza che dà praticamente un continuo feedback, un continuo... sì, da, come dire, fa continuamente capire se stai facendo nel modo giusto. E quando ho detto questa cosa mi sono detto, ma questa definizione mi ricorda qualcosina. Non so se anche a te, come dire, ha fatto unire i puntini nella testa. Questa per me è la definizione del perfetto loop di gioco. Praticamente. Feedback continuo, bella definizione. Continuo, un obiettivo chiaro e preciso nella testa, è tutto quello che ti serve, diciamo, è il minimo necessario per riuscire a entrare facilmente in questo flow, in questa, questo stato mentale di pura estasi, chiamiamola anche così, perché effettivamente è uno stato che quando è in azione crea una sensazione piacevole, no? Quella sensazione di puro controllo, di sapere esattamente quello che devi fare, di essere, no, quasi onnisciente in questa, in questo momento. Sempre felice, però sì, è piacevole, secondo me è uno stato di serenità, a volte tesa, cioè a volte c'è tensione, nel senso, secondo me parlare di zen, magari uno pensa a una persona che appunto, come negli altri due casi che dicevamo prima, una persona che medita, che è in pace, che è tranquilla, il passo rallentato. Noi invece parliamo di qualcosa di un pochino più magari attivo, no? Cioè un po' più teso, un pochino più, come dire, attivo, no? Spaventato. E quindi sì, cioè, mi piace molto questa definizione del feedback continuo, perché togliere il controllo dal giocatore con un dialogo, una cutscene, qualcosa del genere, un filmato, ti fa uscire forzatamente dal flow, e penso che sia uno dei motivi, vabbè, forse minori, per cui molti giocatori odiano le cutscene nei videogiochi. Però da un lato secondo me ti forza a migliorare forse il design e il ritmo delle tue cutscene quando il gioco ne ha bisogno, per dare una punteggiatura, nel senso che secondo me uno stato di flow continuo è impossibile, cioè non è sostenibile. Molte persone lo provano per delle partite con gli scacchi, altre con una partita di Tetris, sono lì, si fanno magari una sigaretta e si mettono là a spippolare, cioè è una cosa che secondo me deve essere limitata nel tempo, non può essere 3 ore di fila. Sì, magari un gioco ti può tenere lì 3 ore di fila, ma secondo me è stancante, cioè è un processo che ti appunto richiede completa concentrazione, completa attenzione, quindi ci sta volerlo punteggiare, anche punteggiare a livello di gameplay, per carità, non solo con le cutscene, eccetera. Però perché faccio questo esempio? Perché in realtà il motivo di questo episodio non è quello che vi aspettate, cioè nel senso, io ho giocato brevemente a Absolute Drift e The Art of Rally, che sono due giochi chiamati appunto zen, di guida. Tu dici, come zen di guida? Eh sì, perché come diranno anche molti, diciamo, piloti, c'è dello zen, c'è questo flow nel guidare, nel fare drifting a quei livelli, c'è questo totale assorbimento in quello che stai facendo. Provano anche, tra l'altro, molti anche atleti, non solamente piloti, insomma, nel fare quello che sanno fare. E questi giochi tentano un po' di ricatturarlo. Per me non ha funzionato, perché sono molto, diciamo, nervoso quando, quando faccio giochi di guida così. Ci riproverò comunque, non escludo che funzionerà prima o poi. In realtà io l'ho provato con Sekiro, questo stato di flow. Quindi Sekiro è un gioco che è molto difficile, è molto complesso visivamente, cioè non è come Tetris, è un gioco che richiede tanto tempo, tanta manualità, tanta conoscenza di come funziona un gioco e soprattutto di come funziona un gioco di From Software, secondo me, nonostante sia quello più approcciabile. Nel senso che cercare di capire tutto quello che c'è intorno a Sekiro e cercare di, come posso dire, di giocarlo in una maniera che ti consente di, come dire, di arrivare a questo flow, senza una guida è impossibile, secondo me. Cioè ci metti veramente troppo per arrivare a questa conoscenza, cioè, a tentativi, come dire. Nel senso, puoi arrivarci ad alcuni concetti, ad alcune cose che puoi fare, ma è veramente difficile, perché Sekiro, come altri giochi From Software, ha degli indizi nascosti su quello che puoi fare per battere un particolare boss, perché comunque è anche quello un gioco d'azione con dei boss. Ma spesso gli indizi sono molto ben sepolti, diciamo, sono molto ben nascosti, e alcune cose non hanno senso neanche a chi ci lavora da 2 anni a fare le guide. Ancora non hanno ben capito perché alcune cose funzionano in un certo modo. Nonostante io, avendo letto la guida, avendolo giocato 6 volte a questo punto, cioè, l'ho praticamente finito al 100%, ho fatto tutto, ho giocato la difficoltà difficile, ho fatto le formaggiate, come si dice in inglese, ho fatto il cheeser. Ho fatto anche quello che se li è fatti dritti, il boss che se li è fatti in maniera leale, ho fatto, cioè, veramente di tutto, almeno ho fatto tutto quello che ritenevo fosse sufficiente ad avere un'esperienza completa per me. Quindi vabbè, per esempio non ho fatto le sfide, quelle aggiuntive alla fine del gioco, eccetera, quelle che non sono negli obiettivi, con tutti i boss più forti, e ho raggiunto lo stesso questo flow. Cioè, nonostante fosse un gioco così complesso, cioè così, è un gioco che è una sinfonia. Sekiro è un rhythm game. Cioè, alla fine dei conti è un gioco che ti costringe più degli altri a imparare il ritmo, a entrare nella sinfonia del gioco, no? In quello che è non la musica proprio del gioco, ma la musica delle mosse, del gameplay. E per me, cioè, un po' come Ori, il feedback che ha visivo e audio soprattutto su quello che fai è tutto, cioè feedback continuo. Sekiro ha uno dei rumori più soddisfacenti della mia vita, cioè di tutti i videogiochi, nel senso, quando pari, cioè, allora, nei Dark Souls un po' in tutti c'è la parata, no? In Bloodborne pure, ma è un po' diversa, e la parata è sempre stata qualcosa di, come dire, molto soddisfacente. Che farla è sempre stato difficile, e cioè, era una cosa che i giocatori esperti facevano per dire: ah, sono diventato bravo, so quando questo tizio colpisce, quindi so, riesco a capire quando devo fare l'anticipo della parata. Su Bloodborne un po' di meno, però vabbè, se sei come me comunque non la facevi. Su Sekiro non esiste. Cioè, in Sekiro non puoi non parare, non puoi non fare parate. Ben, come posso dire? Ben impostate, cioè non puoi evitare di imparare il pattern di alcuni avversari, tutte le mosse che possono fare, che ritmo hanno, come leggerle in anticipo quando stanno per farle, come mettere a tempo le tue parate, specialmente a difficoltà più alte. Non puoi. Cioè, puoi comunque provare a schivare alcuni boss, anzi, schivarli va bene, ce ne sono alcuni pochi però. È bello per questo, cioè ti costringe a giocare in maniera più reattiva, più aggressiva, e a guardare lo schermo e ascoltare i suoni che fanno gli avversari, e questo ti dà appunto come feedback questo ting metallico Niente. a volte Dicevamo appunto feedback continuo. anche. Esatto. È Guarda, tu veramente perfetto. hai tirato fuori i giochi della From che penso si addicano alla perfezione al parlare di questo argomento, visto che di nuovo, sempre solita battuta, non ne parliamo mai, ma come dire, sempre delle mie profonde ricerche, un'altra delle prime cose che si trovano nel parlare del flow, e come molti lo abbiano definito, quel bilanciamento perfetto tra il livello di challenge e il livello di abilità. Perché quando l'abilità del giocatore Esatto. Si bilancia alla perfezione con la challenge che ha di fronte, allora tutto scompare e il cervello riesce a entrare in quello stato di piena concentrazione che ti fa immergere completamente nella challenge che hai davanti. E secondo me pochi giochi ci riescono bene quanto, quanto quelli della, della From Software. Infatti secondo me è anche per questo che a cui devono il loro successo, perché soprattutto in Dark Souls 1 e Bloodborne e Sekiro hanno dimostrato questa capacità di creare incontri, creare boss fight che, come dire, facevano entrare perfettamente in quello stato di... nella zona, no? Nel, nel flow. E infatti c'è un motivo per cui giochi come Demon's Soul e Dark Souls 2, che sono un po' più dungeon crawler, più vecchio stile rispetto a rispetto alle loro controparti Dark Soulsiane, hanno avuto meno successo rispetto a, rispetto agli altri. Comunque sono stati meno apprezzati da, da certi giocatori. Ed è lo stesso motivo per cui adesso, ultimamente, dopo aver giocato giochi, i giochi della From, io faccio fatica ad apprezzare altri giochi che secondo me appunto non riescono a creare questo buon livello di challenge e abilità. Perché c'è sempre... adesso c'è sempre questa sensazione che soprattutto le case più grandi... in realtà adesso sta un po' migliorando la situazione, ma fino a qualche anno fa io avevo sempre l'impressione che tutti i giochi AAA, tutti i giochi che provenivano dalle grandi case di produzione, avessero sempre questa tendenza di tenere troppo il giocatore per mano, di cercare di fargli capire assolutamente tutto come deve funzionare, soprattutto mai creare una vera vera challenge in cui uno si dovesse un minimo impegnare per riuscire a superare. Secondo me è che noi, noi abbiamo tempo e voglia, c'è gente che non ha tempo e voglia, quindi è vero, c'è gente è vero, quello il livello di challenge necessario è quello che ti dà Assassin's Creed, e quindi entrano comunque in quello stato con un gioco più facile, perché tanto so che pensa che è quello. Sì, non lo so, cioè, è che i giochi From Software tra l'altro non sono neanche perfetti in questo, nel senso che molti si lamentano del fatto che sono troppo difficili. Secondo me il problema è che sono troppo difficili all'inizio, nel senso che se anche vuoi giustificare dicendo l'intenzione dell'autore, cazzi e mazzi, comunque avere opzioni di accessibilità non ha mai fatto male a nessuno. Tu puoi goderti il gioco ad un livello di difficoltà che è chiaramente quello inteso, perché questo c'è sempre stato, cioè dall'alba dei tempi, anche un gioco come Halo, che ha i vari gradi di difficoltà della campagna, c'è scritto chiaramente che la difficoltà eroica, che è la seconda difficoltà, diciamo, come si dice, cioè la più difficile leggendaria, la seconda più difficile eroica, c'è scritto proprio il modo in cui Halo è stato creato, insomma, cioè il modo che intendiamo, il modo in cui venga giocato. Diciamo, nei giochi From Software manca l'accessibilità e manca un bilanciamento crescente. C'è un muro all'inizio. Non sono perfetti nel darti gli strumenti inizialmente per arrivare a questo flow. Sekiro è quello fatto meglio in questo, secondo me. Ma probabile. Anche Sekiro, nel suo cercare di creare un'esperienza nuova, un'esperienza unica, a volte anche lì ha degli scivoloni, perché a me, per esempio, a me fa impazzire, mi piace tantissimo che ci siano dei boss che fanno le finte. C'è un boss molto difficile in Sekiro che fa le finte, ti fa la finta di una mossa e poi non la fa. È un concetto stupendo, cioè è un concetto che dici, cazzo, mi mette alla pari con un giocatore quasi, perché i giocatori di quando si scontrano, perché c'è anche il PvP, diciamo, sono le invasioni nei giochi From Software, tranne che in Sekiro, mi pare. I giocatori che si scontrano lo fanno questo, cioè spesso si chiama bait, no? Cioè fare un bait, mm-hmm. fare un qualcosa che lancia l'amo per attirare in una trappola gli altri giocatori, usando appunto delle mosse. E fare una finta, la più classica. Fare una finta, esatto. Delle definizioni. Per smarcare, in quel caso per ammazzare. E quindi è una cosa che da un boss, da un personaggio cioè controllato dal computer non ti aspetti, e secondo me un pochino ti toglie dal flow, nel senso che è fatto apposta secondo me per toglierti dai pregiudizi, dagli schemi mentali che ti sei fatto fino a quel momento, per fare un po' di meta, diciamo, narrazione sul il concetto di boss, perché ormai tu sai che un boss del genere hai delle run all'inizio dove lo guardi, cioè lo osservi come si muove, impari il ritmo, eccetera, e poi avrai la run vera. Ma se ci metti dentro una finta, il tempo di, diciamo, apprendimento si allunga, perché si fa anche le finte, insomma. Ma infatti forse è quello che, se come dire, secondo me si può definire meglio tutta la questione dei giochi From come i giochi che vogliono quasi insegnarti a entrare nel flow, perché come dicevi tu, quando fai quando fai i boss, perché alla fine è quel momento del flow nel gioco, il percorso tra un boss e l'altro può essere interessante, può essere carino, ma non è, diciamo, quello in cui trovi il flow. Secondo me la descrizione perfetta è quando, come dicevi tu, fai i primi tentativi con un boss, sono per impararlo, e tu riesci, come dire, il tuo obiettivo è raggiungere quello stato in cui riesci a leggere così bene il boss da poter entrare nel flow della battaglia, non nel momento della battaglia. Infatti è una cosa che, ora che ci penso, ho trovato molto anche in Monster Hunter, quando ancora giocavo a Monster Hunter, in cui uno, dopo che ha combattuto un mostro, uno dei mostri grandi, più e più volte, lo impara a conoscere, conosce il suo moveset, e dopo entra in quello stato di, come dire, perfetta macchina da guerra per ucciderlo nel minor tempo possibile, che almeno mi è sembrato, sempre guardando, perché non ho avuto l'opportunità di giocare, però è andato un po' più a perdersi forse questa cosa negli ultimi Monster Hunter, per un gameplay più caotico e movimentato, proprio un po' più veramente ammazziamolo di botte, facciamolo esplodere senza neanche pensarci troppo, che è divertente ma in modo diverso. Ecco, almeno così mi è sembrato, purtroppo non ho avuto l'opportunità di giocare gli ultimi Monster Hunter. È un'altra descrizione che mi viene da dire perfetta per tutti i picchiaduro, nel senso che magari se uno riesce a imparare, lì è più difficile perché non sono boss non sono boss controllati dal CPU, hai un altro avversario, però come una qualsiasi scontro 1v1, come può essere una partita di scacchi a un match di, non so, Tekken o anche Super Smash, uno impara a leggere talmente bene il suo avversario, impara a conoscere le tecniche tipiche di quel personaggio, e dopo entra in questo flow del combattimento quasi alla Matrix, mi viene da immaginare il combattimento. Madonna, l'altra sera ho visto due che sono cresciuti col biliardino, non vedevo la palla, cioè, incredibile. Loro erano la palla, Jacopo. Loro erano la palla. Loro erano il palo di ferro. No, mi voglio fare il bravo. Cioè, io ormai, quando vedo Genichiro, e qui faccio uno spoiler a chi non ci ha giocato, Genichiro è un boss di Sekiro, che nel gioco lo si incontra multiple volte. Io adesso quando lo vedo dico, povero Genichiro. Cioè, proprio ho pietà di lui, perché Questo, vabbè, non è uno spoiler perché all'inizio del gioco, la prima volta che lo incontri è un boss che tecnicamente deve ammazzarti. Cioè, il gioco, come storia, vorrebbe che lui ti ammazzasse, cioè che ti tagliasse il braccio, Ok. meglio. Che ti Giustamente. ammazzasse, forse che ti ammazzasse era uno spoiler, però vabbè. Il gioco vorrebbe che lui ti sconfiggesse nella prima boss battle, ma invece che fare gli stronzi come con il primo demone incontrato in Demon's Souls, effettivamente tu Genichiro lo puoi battere. Cioè, diciamo, il primo boss non è una cosa che non puoi battere perché ha troppa salute o comunque c'è un qualcosa di fisso, di scriptato, si dice, no? Cioè che proprio In nel gioco c'è Dark come Souls 1 era codice. perché tu non facevi abbastanza danni, che lo rendeva impossibile al primo scontro, diciamo. In Demon's Souls, dici? Ah, In Dark Souls 1. dici la prima versione, quella dell'Asylum. Esattamente. Sì, esatto, cioè ci sono tante cose che il gioco può fare per renderti impossibile una fight e fartela perdere. Per fortuna Sekiro non lo fa, semplicemente toglie la possibilità di aver fatto pratica e di aver capito certe meccaniche. Alcune meccaniche non le ha mai neanche nominate, quindi io l'ho capito dopo molto tempo che giocavo, tipo il Mickey Counter, c'è cioè un counter nel gioco, cioè i counter nel senso è come fare una parata perfetta, tu fai una parata perfetta e esponi di solito il nemico ha più danno oppure semplicemente gli fai danno alla postura, perché in Sekiro ci sono due, diciamo, barre che devi guardare, la barra della salute e la barra della postura. La barra della salute è la barra della salute, cioè quando arrivi a zero è morto. La barra della postura quando arriva a zero, o meglio quando si riempie, puoi fare un break che essenzialmente toglie una barra della salute al nemico, perché ovviamente i boss hanno più barre della salute, una per fase, diciamo, del boss. Come nei giochi picchiaduro. Beh, spiegazione fatta male, però ci siamo capiti. Quindi Genichiro ha una mossa dove lui fa un affondo, e tutti i nemici che fanno un affondo, se tu capisci che è un affondo, hanno questo scintillio, hanno questo simbolo rosso sopra, tu per fargli un counter che appunto gli fa tanto danno alla postura, che gli apre di solito anche danno alla salute, devi fare una cosa che si chiama Mikiri Counter, che è totalmente controintuitivo. Penso sia la cosa più brutta mai fatta in un gioco, nel senso come cosa da imparare nel vuoto, cioè senza sapere che cos'è, senza sapere come funziona il gioco, non ci arrivi da solo, cioè è una cosa che non ci puoi arrivare da solo, nel senso ci arrivi per sbaglio al massimo, ma perché come funziona il Mikiri Counter? Il Mikiri Counter è un dodge, una schivata verso la spada. Cioè, invece di allontanarti, come magari hai l'istinto di sopravvivenza, o di schivarla da un lato o dall'altro, che in realtà funziona anche per molti di questi attacchi, basta che ti sposti un attimo, quello là a fondo, tu vai verso la spada, e questo, diciamo, se lo fai col tempismo giusto, fa partire un'animazione, togli un sacco di posture, cioè riempie un sacco di posture, eccetera. Il povero Genichiro ha una di queste mosse, come ne ha anche altre che sono, diciamo, difficili da interpretare da controattaccare, insomma, se non hai già giocato il gioco, se non hai già finito. Però la seconda volta sono, ma no, telefonate, cioè ti chiama un mese prima e ti prenota il Mikiri Counter, cioè proprio il povero Genichiro è un boss che se lo hai fatto un tot di volte, se hai capito più o meno il moveset che ha e cosa può fare, è un boss che idealmente non riesce a toccarti. Cioè tu inizia la fight, fa una mossa e il resto della fight sei tu che premi il pulsante di attacco in momenti precisi per non fargli più fare nulla. E è così che funziona nel speedrun. Cioè, nelle speedrun rompono il cervello del povero Genichiro. Cioè, lo riducono, penso, a boh, una persona con i flashback del Vietnam, praticamente. E quindi, niente, ogni volta che lo vedo penso, povero Genichiro, cosa sto per farti? Volevo farmi un attimo un momento di, come si dice, mi faccio il bravo, mi faccio il figo. Poi ci sono, sei invece... entrato molto in un flow di spiegazioni in questo momento. Esatto, sono un po', mi sono un po', esatto, cugnato a spiegare come funziona il combattimento di Sekiro. Poi vabbè, ci sono altri boss che invece non ho mai, non sono mai entrato nel flow, cioè sono troppo schizofrenici per avere un flow, perché sono boss che arrivano a tirarti la cacca, quindi è un po' difficile lì magari, come dire, entrare nel piano astrale quando qualcuno ti sta lanciando cacca addosso. E niente, tutto qua, non so, questa era la mia intenzione di dirlo riguardo Sekiro, però la puntata magari non è solo su Sekiro. No, ma o penso sì, che tu abbia trovato, secondo me, l'esempio perfetto, perché forse è uno dei giochi in cui riesce meglio questa cosa, o perlomeno mi verrebbe da dire uno dei giochi action in cui è veramente riuscita bene, perché sto facendo fatica a ricordare altri giochi in cui si sente quel livello di flow come questo che abbiamo appena descritto. Anche perché, come dicevo prima, tutta la filosofia della From si basa proprio su quello, cioè il fatto che ad ogni tentativo, no, per imparare il boss, come dicevi, tu comunque, come dire, rischi sempre di entrare nel flow, perché qualcosa lo impari ad ogni nuovo combattimento. Quindi è sempre quell'essere nel flow, ma non ancora del tutto, che ti fa continuare, però ti fa venire ancora più voglia di continuare, perché dici, ah, l'avevo quasi capito, ho letto male questa mossa, un altro tentativo, dai, la prossima è quella buona. E stavo pensando che a quali altri giochi effettivamente mi ha fatto provare una cosa del genere. E mi stavo accorgendo adesso che molti di questi finivano ad essere tra i miei giochi preferiti, e il punto è, non so, è sempre la cosa dell'uovo della gallina, sono tra i miei giochi preferiti perché entro nel flow, o entro nel flow perché sono i miei giochi preferiti. Cose come The Binding of Isaac, secondo me ci sta tantissimo, ma anche tutti quei giochi di più strategia, oserei dire, che dopo avermi insegnato come si dovevano giocare, riuscivo a, come dire, leggerli molto meglio, no? Mi sta venendo in mente Rimworld, o... ho giocato un po' anche a Civilization, che non mi ha appassionato come Rimworld, perché non sono molto per le cose storiche io, ma lì è una preferenza personale. Però era anche lì incredibile come riusciva a insegnarti tutto il gameplay, tutte le mille variabili che c'erano, e a un certo punto tu effettivamente sapevi cosa fare ad ogni turno, nonostante ti fossi espanso in ogni direzione, creando una rete di possibilità praticamente infinita. Altri esempi, adesso sto facendo fatica, perché ovviamente da questo elenco sto escludendo tutti quei giochi che si basano più sulla narrativa che sul gameplay in sé, perché ovviamente la questione del flow viene quando il gioco è particolarmente incentrato sul gameplay e non tanto sulla narrativa. Vedi, per esempio, Outer Wilds, gioco a cui abbiamo dedicato un'intera puntata l'altro giorno, non lo definirei molto probabilmente un gioco da flow. No, sì, io sì. No, cioè, non è un gioco... Non so, tu ce lo metteresti o no? Perché mentre lo dicevo dubitare le mie stesse parole. È che il flow lo puoi appunto limitare nel tempo, no? Quindi per me Sekiro è un gioco che entra nel flow solo in certe situazioni, in certi boss. E così anche Outer Wilds. Cioè Outer Wilds per me è entrato nel flow solo in certe circostanze dove ero completamente assorbito da quello che stava succedendo. Però anche lì vorrei argomentare che è un flow un po' diverso. E lì era più la curiosità del dire, aspetta, ma qua sto per veramente, sto quasi per vedere il puzzle nel suo complesso, no? Sto per quasi per finire, per unire tutti i puntini e vedere la scena finale. Lì, secondo me, più che flow... Sì, è un assorbimento, hai ragione. Sì, era sì, un po' la curiosità nel dire, aspetta, ma se questo è così, allora sto veramente per capire come sta, cosa sta succedendo dietro tutto questo. E lì è la curiosità, è un po' come, come dire... È un po' quella serie TV mystery giallo che stai guardando e che non riesci a smettere perché ti lascia sempre. L'episodio finisce sempre con un cliffhanger. E tu dici, io quale? Ecco, visto questo è il mistero. Comunque, sì, cioè, un po' è quello, un po' forse è quello che dicevamo prima delle altre due, quelle più zen, no? Le cose più rilassanti. Che magari... non so se definirlo rilassante sotto certi punti di vista. No, dai, per me è molto, dipende da che persona sei, per me è molto rilassante, è molto, diciamo, come dire, positivo come gioco, però appunto posso capire chi gli mette molta ansia e depressione. No, non lo so, io verso il finale, quando stavo per capire il tutto, stavo, cioè praticamente stavo seduto senza sedia, sei presente quando... Sì, vabbè, sì, alla fine ok, però dico, cioè, a volte, quello è un gioco come appunto, come dicevo, magari anche in... Vabbè, ma parliamo nel suo punto, fanculo. in giochi come Ghost of Tsushima o Valhalla, è anche bello a volte fermarsi, perché uno magari dice, specialmente Valhalla, ci sono 120 ore di contenuto, se ti fermi sei finito, ne dura 200 il gioco. Specialmente come me, se vuoi un po' dargli una finita alle cose principali. Quindi anche Tsushima in realtà è un gioco che non sembra, ma è enorme, è lunghissimo per quello che è, forse anche troppo. Cioè, ho sentito più la fatica su Ghost of Tsushima, ti dirò onestamente, cioè Valhalla mi ha distrutto, ma Tsushima è più che non è più lungo, è molto più corto di Valhalla, però è sorprendentemente lungo. Nonostante questo, sono due giochi che, cioè, ti invitano quasi a fermarti, e Ghost of Tsushima è stato uno di quei giochi che mi ha fatto proprio dire wow, adesso mi fermo e guardo questo campo di fiori un attimo, cioè. A parte proprio a livello grafico, cioè era proprio un, non lo so, non era più un fatto di qualità, di realismo, era proprio un fatto di colore, di emozione, di momento emotivo, il vento, la musica, non lo so. Ma quindi c'era qualcosa dietro in questo tuo desiderio di fermarsi, nel senso c'era una riflessione, era solo pure estetica, come quando stai... Non so, come quando vedi una bella fotografia o un bel quadro, però il personaggio principale si ferma in degli onsen e riflette sulla sua vita di solito, oppure si ferma in dei posti e compone degli haiku in base a quello che ha intorno, in base a quello che gli è successo. Quindi il personaggio stesso è riflessivo, cioè lui, proprio il personaggio, è molto... molto è una persona che digerisce quello che le sta accadendo, non lascia che scompaia e non cerca di ignorare le cose belle e brutte, ma soprattutto brutte, che gli capitano. E quindi un po' il gioco ti invita a fare delle riflessioni anche tu, o sugli eventi, diciamo, del gioco, quelli che sono appena accaduti, oppure su qualcosa che ti ricorda... paesaggio, una cosa, per me un po' un misto, cioè è difficile a volte anche ricordare i pensieri che hai avuto in quello stato, no? Ecco, un po' come se mai capitava, vai a correre, hai un certo flusso di coscienza, di pensiero, e quando ti fermi poi non ti ricordi più che cazzo stai a pensare, cioè nel senso è... Non so se anche per te è vera questa cosa, o solo io che sono... c'ho l'Alzheimer... No, di sicuro anch'io ogni tanto ho fatto le mie passeggiate riflessive. Quindi diciamo, o ti segni quello che stai pensando, oppure magari un po' te lo scordi, un po' così. È la stessa cosa lì, cioè tu magari la tua mente vaga, lasci che vaghi, cioè lasci che se ne vada un po'... per cazzi suoi, e poi alla fine quando torna magari vedi che è un po' infangata, però non sai bene dove è stata, insomma. Mm-hmm. E quindi c'è, non lo so, è anche bello quindi questo. Quindi tu dici, perché io di nuovo non ho mai giocato ancora Ghost of Tsushima, il gioco riesce a creare questa, diciamo, voglia anche di fermarsi nel giocatore oltre che nel personaggio, perché comunque sono due cose diverse alla fine. Uno si può scrivere nella storia di un personaggio che si ferma a riflettere quanto vuole, ma se poi non riesce a collegarsi un po' anche al giocatore nel... Dipende dal giocatore. Per me, diciamo, i momenti in cui si è fermato il protagonista, solamente uno mi sono fermato anch'io. Cioè, perché ha detto una frase che non mi aspettavo e quindi mi ha, diciamo, un attimo bloccato lì a guardare l'orizzonte. Però dipende dal giocatore. Cioè, il giocatore secondo me deve essere predisposto. Cioè, deve avere una predisposizione sia, diciamo, di umore che di indole in quel momento. Per cui dici, io... mi fermo a guardare una cosa. Anche giochi che sono fatti apposta, tipo Abzu, non sempre, cioè, ci riescono. Io ho giocato Abzu, l'ho finito in mezz'ora. Cioè, dipende come stai. Dipende... Cioè, io... Ci sono giochi che anche dopo che li hai finiti ti tengono fermo. Cioè, a me Firewatch mi ha fatto fissare il muro per tipo un'ora a... non so, a pensare a quello che avevo appena finito. Altri no. E non sempre... viene subito in mente Journey in questo tipo di descrizione. Sì, Journey stupendo. Dici, quindi ciao. Questo è uno stato diverso dal flow, però è comunque... dobbiamo cambiare il titolo. Per me, per me basta descrivere tutto, però è The Zone è quello prima, cioè The Zone, esatto, è quello di Sekiro. Questo è più, secondo me, Zen. Questo è più... Ci sta? Zone e Zen, Yin e Yang. Cioè, proprio fare una cosa magari più semplice, stare fermo, pensare, o molto meccanica, cioè molto base, molto facile da fare. Per me questa cosa è lo sistema di spostamento di Spider-Man, no? Le ragnatele, cioè il fatto di andare da un palazzo all'altro, così. Siccome nel gioco sei molto aiutato, non hai bisogno di concentrarti troppo, è una cosa che mi... Non so, mi fa impazzire troppo. Beh, allora, se lo definisci così, di sicuro, ecco, questo stato, lo stato Zen, di sicuro c'è in Outer Wilds, di sicuro c'è in Journey, di sicuro c'è in Firewatch. Avevo in mente anche un altro titolo che ovviamente mi è già uscito dalla testa. Per molti Sunset Overdrive, per molti Sonic. Però vabbè, Sonic è più perché magari, appunto, come dicevo prima, sono cose talmente ripetitive che vengono facili. Quindi è un po' Zone che diventa Zen, in quel caso. Per molti è Prototype, quando vabbè, voli così. Anche Minecraft, alcune cose di Minecraft che puoi fare. Cioè, ci sono questi... Queste cose facili, spesso sono movimenti, no, che fai nel gioco, tipo volare, o sciare, o fare snowboard, o fare... tipo prima alcuni giochi di snowboard, alcuni giochi di mountain bike, di cose che forse anche in realtà ti fanno entrare in questo stato, no? In realtà questo sì, c'era anche nel... come dire, quando prima ho detto che il flow è quel bilanciamento perfetto tra challenge e abilità, c'è tutta una tabella, c'è tutto un grafico che descrive la perfezione. Questo si può dire magari che siamo nello stato di rilassamento, no? Di controllo, cioè che quando l'abilità è alta e la challenge è media, diciamo, comunque molto bassa, secondo me. Sì, è arrivata a essere a non esserci veramente una challenge. Tu sei in pieno controllo e, come dire, ti permette alla tua mente di vagare e concentrarsi anche su qualcos'altro, che però è diverso dal non far niente, no? Esatto. Perché, come dicevi tu, per esempio, prima, a un certo punto, quando impari a muoverti tra gli edifici in Spider-Man, o mi verrebbe da dire quando sai, magari in Firewatch, quando sai dove andare, quando hai imparato la mappa, quando sai quello che devi fare in giro, e ti permetti di concentrarti sulle altre cose, no? Concentrarti sulla storia, concentrarti su il significato che ci può essere dietro a quello che sta succedendo ai personaggi. È interessante, in effetti, sì, anche lì, se usato bene, ovviamente può creare cose straordinarie, come dicevamo prima in Outer Wilds, quando, per esempio, a un certo punto hai iniziato a imparare il loop dei 22 minuti, a imparare come sai quello che succederà nell'universo nei prossimi 22 minuti. Beh, però non allora spoileriamo. Vabbè, ho detto 22 minuti, santo Dio. No, hai ragione, è la prima cosa che ho spoilerato. Se hanno guardato le puntate in ordine, hanno... Sì. Però sì, vabbè, c'è un loop in Outer Wilds, spoiler. La prima cosa che ho spoilerato, quindi ci sta, scusami. Giocato, come dire, ragazzi, una volta appunto che uno ha imparato un po' il loop, si rende conto di quello che c'è dietro, di come siamo arrivati a questo punto, di come ti rendi conto effettivamente di come anche gli altri personaggi del gioco stanno reagendo a tutto quanto, e ci vuole, no, a un certo punto, una volta raggiunto quel momento zen, quello stato di rilassamento, non c'è, cioè, ci vuole per poter fare queste riflessioni, altrimenti uno non avrebbe mai il tempo, se fosse tutto un'azione dopo l'altra, pieno, un'esplosione dopo l'altra. Se non impari bene tutto quanto un po' il layout dei pianeti, così trovi magari il tuo percorso che fai sempre per andare lì, c'hai comunque un controllo più preciso del jetpack, cioè magari ti schianti con la sua, perché so che molti, me incluso, si schiantano con la nave, perché tanto, vabbè, sti cazzi, la lasci lì. Però magari anche imparare un controllo più preciso con la nave e con il jetpack, appunto imparare le strade per andare dove vuoi andare in certi pianeti, così, cioè, ti fa entrare anche quello, secondo me, nel flow, nello zen, dopo un po'. Perché non richiede più attenzione, non richiede più concentrazione come un Sekiro, come qualcosa che è costantemente lì a farti, a crearti ansia, a crearti angoscia, a crearti fretta. Se non c'è fretta, il cervello si spegne. Bisogna fare molta attenzione, però, anche perché è difficile arrivare anche a questo stato. Perché se prima è difficile bilanciare challenge e abilità per il flow, in questo stato è difficile bilanciare sempre challenge e abilità, perché a volte più che una situazione di relax, si finisce per diventare una situazione di noia, perché se poi uno si ritrova a dover fare compiti ripetitivi, però senza comunque qualcosa con cui lavorare durante tutto quel percorso, o che comunque sono operazioni facili, challenge facili, ma non sufficientemente facili da poterti proprio far rilassare, uno si trova sempre in quello stato tra non potersi completamente lasciare andare alle sue riflessioni e invece doversi concentrare di nuovo sul gioco. E, come dire, è sempre... c'è un motivo se non riesci a tutti, solo questo. Mi senti ancora, Jacopo? O sono caduto? Sì, no, sì, okay. Ci sta. Eravamo ci sta. Anche noi un attimo in zen. Eravamo entrati un attimo nello stato zen. Il che mi stava avvertendo anche a pensare a questo punto, abbiamo... Beh, la puntata, come avete intuito dal titolo, partiva come una riflessione sul flow, su questo... sì, su questo stato in particolare. Poi da questo abbiamo... ci siamo accorti che esiste anche un altro stato di cui... di cui abbiamo avuto esperienza in vari giochi, che quelli che l'hanno fatto bene sono entrati tra i nostri preferiti. Esistono altri stati che si possono... Intendi, intendi altri stati o intendi altre cose che ti fanno entrare in uno stato di flow? No, entrambi, cioè no, entrambi a dire il vero, se ti viene in mente qualcosa. No, sto pensando se c'era qualcos'altro da aggiungere. Beh, appunto, challenge, abilità, perfettamente bilanciati, ci sta assolutamente. D'altronde, challenge bus? No, non è vero. D'altronde, lo stato di flow non è che nasce con i videogiochi, come dicevo prima, è una cosa che era stata studiata già dagli anni 70 e che decisamente prima che ci fosse tutta questa cultura videoludica era associata molto di più alla parte creativa, no? Quando un artista o un artigiano si metteva a fare qualcosa e si perdeva completamente nel suo lavoro, nella sua opera, senza rendersi conto del tempo che passava e di quello che gli succedeva attorno, no? Veniva anche molto romanticizzata come idea, no? L'ispirazione quasi, no? Forse si chiamava anche ispirazione, questo completo perdersi nel momento, nella propria arte. E come dire, cioè, giusto per dire quanto veniva già apprezzata prima dei videogiochi, poi uno si sorprende del fatto che i videogiochi siano diventati un'industria così, così predominante, hanno avuto il successo che hanno avuto. Voglio dire, è una cosa che praticamente l'essere umano insegue da una vita, questo concetto, e che i videogiochi sono più o meno riusciti a standardizzare, perlomeno, perché comunque... Sì, a fartelo provare, cioè è una cosa che... Sì, diciamo che hanno reso... assaggiare con i videogiochi. È un po' come dire, uno si sorprende che l'industria alimentare abbia avuto il successo che ha avuto quando gli esseri umani avevano fame dall'alba dei tempi. Ma guarda, non credo che ci sia stato qualche egiziano che diceva: oh, guarda, ma l'industria alimentare sta andando veramente bene. No, cioè, nessuno è stupito. È una cosa che uno tende magari a non pensarci, no? Cioè è una esatto. È una caratteristica meno glamour, meno... No, ma forse quello che intendevo dire io era più che... Come dire, c'è gente che fa fatica ancora di tanto in tanto a capire perché la gente possa appassionarsi a tal punto a videogiochi. Hai detto gente due volte, devo alzare il cartellino giallo per qualunquismo, mi spiace. Scusa. Sei ammonito. Prego, continua. C'è qualcuno che ancora si sorprende quando scopre che le persone possono appassionarsi così tanto a una cosa che sembra ancora così stupida come quella di un videogioco, come quella di un... sì, di una sfida, di un giochetto, che sembra una cosa così per bambini. Ma allo stesso tempo, queste nostre puntate che sembrano non raggiungere mai a niente alla fin fine, o non abbiano un obiettivo finale da raggiungere, io penso che vi invito a prenderle un po' più come un... farvi notare cose che magari non chi è meno esperto, chi è meno appassionato, fa un po' più fatica a vedere. E magari uno dei motivi per cui tanta gente trova così tanta soddisfazione in quello che può essere il videogioco, questi mondi digitali creati apposta per lui, o lei, non facciamo favoritismi. Potrebbe anche essere questo. Potrebbe essere questa sensazione di flow, di pace mentale che ogni tanto si riesce a raggiungere ed è che nella vita di tutti i giorni, se uno non ha ancora trovato la passione che fa per lui, può far fatica a raggiungere facilmente, e che i giochi hanno reso così semplice entrarvici. Sto usando troppi troppe coniugazioni, esatto. Anche da risultare pericoloso a volte, perché come dicevamo c'è gente che poi ci gode troppo in questa soddisfazione, ci si perde, poi sì. Ci si perde assolutamente. Era giusto per dire, non sorprendetevi così tanto se non avete, ma se non avete ancora notato tranquillo queste cose. Che di persone sorprese ce ne sono poche, e ti dirò anche perché. Cioè, il fatto del flow, adesso mi ha fatto tornare in mente una cosa, era un argomento di Animatrix, non so se conosci l'antologia. Penso di aver presente, sì. uno dei cartoni, cioè questa raccolta di animazioni fatte per, appunto, per il mondo di Matrix, non tutte bellissime, alcune abbastanza penose, però una di queste mi è rimasta stampata a fuoco nel cervello, perché era un corto molto corto, quasi muto, da quello che ricordo, non ricordo benissimo, di questo atleta, forse centometrista, e raccontava del suo stato di flow talmente potente da farlo risvegliare, da rompere la matrice e da farlo svegliare nel mondo reale. E tutto, diciamo, questo racconto è nell'arco di una frazione di secondo, cioè nel momento in cui tutte le fibre muscolari del suo polpaccio si tendono per dare quello scatto, diciamo, esplosivo, letteralmente esplosivo, all'inizio di una corsa. E vabbè, non dico, andatevelo a vedere, non dico, adesso non racconto tutto, è molto breve. E questo momento di pura, come dire, di puro essere l'uno con l'universo, talmente potente da farti, come dire, scappare dalla simulazione, è una metafora talmente, diciamo, bella, che come dici tu, non c'è da stupirsi se è così apprezzato averne un assaggio con i videogiochi, ma... Dicevamo romanticizzata come cosa prima. Esatto, romanticizziamo molto, ma non c'è nessuno che si stupisce, perché la maggior parte dell'incomprensione non viene dalla mancanza di queste conoscenze, viene dalla mancanza, come dicevi tu prima, della visione del videogioco come una cosa legittima, come un hobby o una passione o qualcosa che è alla pari di cinema e televisione. Ma anche fosse alla pari di cinema e televisione, ti ricordo che almeno io e te viviamo in una società che dà valore ad una persona se non in base ai soldi che ha, al lavoro che fa, alla famiglia. Cioè abbiamo dei valori come società che molti associamo come valori che definiscono la persona. Quindi tu, come persona esterna, se sei magari un genitore, se sei una persona un po' più anziana, un po' più conservatrice, un po' più... tutelata, o piuttosto che privilegiata, piuttosto che è rimasta nel tuo ambiente di Natale, cioè il tuo ambiente, diciamo, dove sei cresciuto, magari non hai l'ottica del godersi la vita, cioè dell'accrescimento personale, del cercare questo stato zen, no? Che magari da un lato per sì, ma è edonismo, ma tu dovresti lavorare, creare, produrre, così, per la società, No. Cioè, nel senso, siamo andati un po'... andando sul politico, guarda. Siamo andati sul politico, sul filosofico. Sul sociale, quasi. Cioè, stiamo andando un po' su un discorso complesso, secondo me, ci però... Sta. Io era per dire... era per dire... Secondo me questo è più un dettaglio per chi magari era una cosa che aveva provato ma non gli aveva mai dato un nome. È una cosa che magari sì, è vero, cioè magari anche una casalinga di 67 anni che o dopo pranzo si fa una sigaretta e gioca a Tetris non conosce. Cioè, no, non è una cosa che magari riesce a dargli un nome, come neanche noi ci siamo riusciti in realtà, però vabbè, quindi fanculo, nel senso, ignorate questa parte. Magari c'è... Come altri episodi di questo podcast, alla fine uno magari, cioè noi non sappiamo le cose, però magari le cerchiamo oppure gli diamo un nome noi, a posto, abbiamo risolto. È dobbiamo mettere noi non sappiamo le cose come sottotitolo del podcast, esatto. Per favore. Almeno le abbiamo identificata. Come dicevo, come ho cercato di dire io prima, noi ve lo facciamo notare, poi il resto... È una cosa che ci piace, di cui ci piace parlare poi, che è il motivo fondante di questo podcast, quindi... quindi questo, insomma. Non, secondo me, appunto, non è... per forza di cose non è l'attrattiva principale, secondo me, dei videogiochi. Cioè, lo so che a me piace molto, cioè, è una cosa molto che ho molto a cuore, infatti se l'avevo proposta io... 12 anni fa, questa puntata, quando abbiamo scritto le prime. Long overdue. Esatto, era il lontano 1896 quando ho proposto questa puntata a Marco. E... No, cioè, era una cosa che a me interessava molto, ma, cioè, come diciamo l'altro giorno, parlando un po' di Halo Infinite, stavamo parlando un po' di... come posso dire? Del multiplayer di Halo Infinite, scusate la digressione, però... Era una discussione su la capacità di Halo Infinite di portare, di attirare nuovi giocatori, no? Si parlava di questo, perché un gioco multiplayer vive anche di quello. E io pensavo, cioè, i tempi sono cambiati, cioè, quello che noi cerchiamo, noi vecchi giocatori di Halo, quello che noi cerchiamo in un gioco è molto diverso da quello che cercano le nuove leve, chiamiamole così, no? Cioè... È un mondo letteralmente diverso, è un mondo dove, a parte il Covid, comunque c'è, è un luogo di incontro più che, cioè, più che quando lo era per noi il divano, dove magari giocavamo ad Halo così, dove c'era la discussione prima e dopo la partita sul divano, adesso il divano è la lobby, il divano è Discord, il divano è siamo sull'isola, stiamo aspettando il bus, il divano è siamo sul bus e scegliamo dove scendere sull'isola, cioè, e questo vabbè, come per Fortnite, anche per tutti i Battle Royale, cioè è proprio un ritmo diverso di meta gioco, cioè di non di meta gioco, di pre-partita e di post-partita, c'è tutto un ritmo diverso, c'è tutto un concetto diverso di comunità e anche non so, cioè, l'attrattiva secondo me principale ora per cui molte persone si affacciano al gaming è, oltre che per il passatempo da cellulare e così, la socializzazione, il giocare insieme, no? Perché non siamo tutte persone un pochino sociali che ci piace stare a casa, giocare a Sekiro 6 volte... E quindi molti lo fanno appunto per stare con gli amici, eccetera, farsi due risate. Quindi è difficile che ci sia il flow in quei giochi. Cioè, per carità, si fa, nel senso, quando arrivi a certi livelli, così ci sono anche belle partite dove capita, però non so, la vedo più difficile, no? Cioè, che in un gioco multiplayer, perché i giochi multiplayer, diciamo, di... Per definizione ci sono altri giocatori che sono altri umani schifosi, imprevedibili, cioè nel senso di solito... A me può succedere in giochi multiplayer non a squadre, almeno. Interessante, magari, elabora. Se giochi... Cioè, è quello il punto, alla fine può succedere forse... Come dici tu, perché tu stai parlando del sociale, dei giochi, io sto dicendo effettivamente... Sì, nei giochi multiplayer può succedere se non c'è il sociale, ovvero se giochi da solo a un gioco multiplayer, cioè se giochi a Fortnite da solo e non stai streamando, in questo caso sei da solo completamente concentrato sulla partita, lì puoi entrare nel flow, probabilmente molti riescono a entrarci nel flow, Ma non volevo, in realtà mi sono impedito di dirlo perché tu stavi cercando di fare un altro punto, mi sembrava, stavi cercando di aggiungere... No, no, no, in realtà hai fatto un punto interessante che... qui non avevo pensato, vabbè, hai ragione, niente. No, spero... no, invece, volevo sentirlo, mannaggia la mia boccaccia di... No, no, no, era... No, vabbè, ok, diciamo, allora diciamo così, cioè, hai ragione tu a dirlo così, però... Sì, cioè, io parlavo, sì... Di giochi, esatto, di squadra, di un'altra sì, cosa, sì. Esatto, tu mi stavi dicendo altri tipi di giochi multiplayer, quelli in cui finta, magari, sì, facciamo finta di sì, vai. In cui magari c'è una ci si parla anche, no, tra membri della squadra, ci si coordina, per esempio. O sbaglio, esatto, o stavo capendo sì, male io. Sì, esatto. E lì magari c'è appunto, forse è quello, forse lì è più difficile raggiungere il flow, perché come dicevamo prima, se è vera la cosa tra challenge e abilità, il perfetto bilanciamento, allora vuol dire che oltre alla challenge del gioco e l'abilità nel gioco, c'è anche la challenge della coordinazione e l'abilità nel coordinarsi, esatto, a quel punto. E forse si riesce... E forse lì è bellissimo quando si riesce a entrare nel flow, perché si entra nel flow quasi come gruppo a quel punto. È vero, come, cazzo, come vero, una sì, mente alveare che diventa una cosa sola per un certo momento. E lì deve essere una cosa che effettivamente, chi lo sa, forse anche vederla in un certo momento, questi, sempre questi sport che tutti, come diciamo prima, per, dov'è l'interesse, no? Forse anche riuscire a vedere qualcuno che riesce a entrare in uno stato così di comunione mentale, suona malissimo, però è affascinante da vedere, è interessante, è un, sotto molti punti di vista quasi magico a un certo punto. Non so, io sono romantico anche di mio. Quindi... Oggi siamo troppo romantici. Come dicevamo prima... È un episodio che sentivamo di dover fare da parecchio tempo. Sì, era una scusa questa. E tra l'altro adesso mi è fatto venire in mente, è vero che magari entrare nella zona è più difficile e come dici tu, quando ci riesci è spettacolare perché ci siete tutti di solito, cioè ci siete come gruppo, come mente alveare, però a me è capitato in realtà di entrare nell'altro stato, cioè di fare un'esperienza zen... con Salla, salutiamo Salla, cioè, perché c'è un gioco multiplayer dove per qualche motivo gli sviluppatori hanno deciso che a te non ti vogliono cacare il cazzo, essenzialmente, cioè nel senso gli altri giocatori possono attaccarti, tu puoi attaccare gli altri, ma essenzialmente nessuno vince niente, non ci sono vincitori, sconfitti, cioè l'unica cosa che magari perdi è un po' di soldi per comprare un pappagallo che no, una skin a forma di pappagallo. I pappagalli servono solo i soldi veri. Sto parlando di Sea of Thieves. Ok. Ed è un gioco che, diciamo, se lo prendi bene, se stai in un certo stato mentale, ti prende bene. A me è preso molto bene perché ha dei paesaggi a volte veramente, come dire, non so come, non mi ricordo la parola, c'era una parola specifica per dire, oddio, come si chiama? Vabbè, romantico, un paesaggio romantico, un paesaggio che non è magari bello, ma ti genera qualcosa, cioè ti genera un movimento interiore, non intestinale, e boh, cioè, l'ho fatto nel senso, a volte in quel gioco veramente... ti perdi per un minuto a guardare la luna, a guardare il mare che si muove, a guardare l'orizzonte, a suonare la cavalcata delle valchirie con la fisarmonica, cioè non lo so, ha quella qualità che pochi giochi hanno in multiplayer di cazzonaggine, non so, è un controesempio che adesso ci ho pensato come parlavi di raggiungere la zona con la squadra. Quindi niente, giocate a Sea of Thieves, Edoardo. Ah, questo è quanto. Sai che io avevo anche forse un po' Si è procrastinato a fare questo episodio perché avevo paura che, non so, di non avere molto da dire, e mi sono sorpreso a notare quanto effettivamente, Marco, riusciamo sempre a snocciolare più cose di quanto mi aspettassi. Dire sempre cazzate, ovviamente, ma è un talento anche quello, no? Una challenge perfetta per la nostra abilità. Esatto. Ah, siamo entrati nel flow con questa, con questo episodio, eh? Bene. Speriamo che non ci siano buchi nell'audio di questo episodio. Visto che abbiamo iniziato all'improvviso, non ho fatto il tempo a chiedertelo prima. C'è il nostro momento preferito in questo episodio o... Non lo so. Beh, in realtà l'hai un po' spoilerato, secondo me, all'inizio. Quindi non so se vogliamo farlo. Possiamo anche dare una botta di vita e non farlo, come pensi? Stavo pensando se effettivamente ci si... No, cioè, io dovrei ripetere quello che hai detto tu all'inizio, quindi... Mannaggia te. No, cioè, parlare di flow in Metal Gear, boh, sì. Forse in alcune boss fight, ma secondo me le boss fight di Metal Gear non sono mai state pensate troppo per il flow. No, lasciamo perdere. Forse un po' di zen c'è durante le lunghe camminate di Death Stranding, ma a parte quello non mi viene in mente molto altro. Hai ragione, è vero. Bisogna dargli atto, però, con la musica hanno fatto veramente una cosa eccezionale in Death Stranding, perché non so che trigger abbiano usato per farla partire sempre nei momenti giusti, alle giuste inquadrature, però tanto di cappello, lì bisogna dirlo. Aspetta, allora, visto che hai trovato una cosa da dire, devo per forza mettere la la sigla iniziale. La sigla del momento Kojima. No, mettila all'improvviso in post-produzione senza no. Che... Ok. No. Così, a casaccio, dopo che abbiamo già detto, posso... Niente, in conclusione ci può stare. Io sinceramente faccio fatica a trovare altri momenti zen o flow nei giochi, perché alla fine è più quello che dicevamo prima, cioè il voler continuare a giocare, il voler continuare a scoprire, più la curiosità di capire quello che c'è dietro tutto quanto, no? È quella curiosità che è più come leggere un libro o guardare un film, che vuoi sapere il finale, vuoi che la storia chiuda tutte le domande, no? Risponda alle tue domande. E quindi è lì. Quindi, che dire? Ci siamo persi in questo flow di parole, in questo... le nostre voci sono diventate acqua in questo Ferragosto. E che non posso dire altro se non speriamo che vi sia piaciuta la puntata. Grazie per averci ascoltato. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E continuate a giocare. Ciao.